Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, sono Giusy di Cantù. Forse mi puoi regalare un libro infame, come lo chiami tu. Grazie. Ho bisogno di un libro infame come pronto soccorso per titillare le passioni sopite di mia moglie. Grazie. Che regalate dei libri indecenti. Io sarei interessata a riceverli. Desidero avere quanti più libri possibili per me e per i miei tre piccolissimi bambini. Voglio dei libri perché non ho il tempo di andare in libreria a comprarli. Ci siamo. Doveva venire il giorno dell'addio, il giorno della ripartita, il giorno del saluto, e voglio che questo giorno sia per voi un giorno lieto, e quindi, come di consueto faccio da anni, la mia scrivania è stracolma di libri infami. Questa mattina voglio salutarvi perché oggi è l'ultima volta che mi sentirete in diretta, avrete modo di sentirmi in una versione registrata per un'altra due o tre puntate, poi ci sarà il gastronauta a questa fascia oraria, ma mi potrete ascoltare la mattina alle 10 con il treno va e anche la sera la stessa, mi sembra alle 21 sempre con il treno va, poi più o meno sarà così, andatevelo a cercare nel palinsesto. Devo dire, oggi devo dare dei libri infami, ma non voglio porre, perché voglio dare tanti libri, domande astruse ai miei ascoltatori. Di solito chiedo dei contributi che richiedono articolazione, facilità di eloquio, elaborazione di pensiero. Oggi una cosa semplicissima: chi vuole andare a vedere nel mio profilo Facebook, dove sono su Twitter, ho appena postato una foto che mi è stata fatta con mano malferma pochi istanti fa, che mi ha ripreso come sono vestito, come sono normalmente vestito. Ho una camicia da carcerato a strisce bianche e blu, ho dei pantalonacci vecchi color indefinibile che vanno dal beigiolino al bianco sporco, ho delle scarpe da Umarell che metto senza calzini, ma infatti la sera devo metterle fuori dalla finestra perché non hanno un ottimo odore. Fine, sono vestito come uno straccione. Perché? Perché è estate, non me ne importa nulla, non mi pongo problemi, nessuno mi guarda e mi giudica, e vivo grazie a Dio in una città che sarà piena di problemi, piena di infami circostanze, che è quella di Roma, che però permette di vestirti come ti pare. Quando me ne uscì dalla mia piccola provincia perugina, in cui dovevi stare attento a non mettere il pomeriggio la stessa giacca che avevi messo la mattina nel corso Vannucci, mi trovai improvvisamente in un posto in cui nessuno mi guardava come ero vestito. Fantastico, dico, sono nel posto più bello del mondo, e smisi di preoccuparmi di come vestirmi, ma in realtà avevo dei momenti molto ricercati. Ebbene, io questa mattina regalerò un libro infame a chi semplicemente mi descrive come è vestito. Voglio il vostro outfit, ditemi come siete vestiti e avrete un libro infame. Ma semplicemente ho una camicia fatta così, dei pantaloni fatti così, delle scarpe fatte così. Perché dite questo ha un valore per te? Sì, ha un valore statistico. Voglio capire com'è il mio pubblico, come si veste. Voglio immaginarmelo per l'ultima volta davanti, e posso immaginarmelo soltanto vestito, altrimenti sarebbe indecente se lo immaginassi senza vestiti. 800240024, giuro, un libro infame, bellissimo, fantastico, spinto dai più potenti uffici stampa delle più grandi case editrici d'Italia. Ce l'ho qui sul tavolo, lo regalo a chi mi dice come è vestito. 800240024. Ciao Gianluca, io di libri vorrei averne addirittura 4, se possibile. Uno per la mia piccola di 10 anni, che così scopre che c'è qualcosa di peggio di Geronimo Stilton. Uno per la mia grande di 13, che ha appena fatto la tesi dell'esame di terza media. 3 per mia moglie, che così forse riprende in mano la storia della filosofia italiana che ha abbandonato da un sacco di anni. E 4 infine per me, perché visto che i libri me li sono scelti sempre io, mi piacerebbe che qualcuno li scegliesse per me. Ciao Gianluca, sono Anna, vorrei sapere come faccio ad avere un libro infame. Buongiorno, sono un vostro aficionados, sono un gran lettore, soprattutto di saggistica, so che potete dare dei libri, io li riceverei volentieri. 800240024, regalo un libro infame a chi semplicemente mi descrive il suo vestimento. Già mi manda un sms di Gigi da Torino: camicia viola e pant grigio nebbia. Eh sì, ma devi telefonare. E invece Maurizio da Milano, buongiorno. Sì, buondì. Lo vuole il libretto? Sì, mi interesserebbe il libretto, se vuoi anche più di uno. Ho chiamato veramente per dirti una cosa, poi ho ascoltato un attimo la trasmissione e chiedi di come uno è abbigliato. Sì, ma è una cosa importante per me. In effetti io adesso sono in casa in calzoncini corti, maglietta normale. No, aspetta, calzoncini corti. Quali calzoncini? Scusa? Quali, quelli bianchi che escono le palle da sotto, stretti e corti, oppure quelli al ginocchio che vanno un pochino più di moda? Quelli un po' più abbondanti. Quelli sì. Un po' più abbondanti. Ma sono pantaloncini più... da casa o da uscita? Beh, no, sono pantaloncini da casa. E poi un paio di ciabattine... Infradito? No, ciabattine tipo Crocs, normali. Ah, le Crocs. Ma la maglietta com'è? La maglietta è una maglietta... una maglietta tipo argentina col collo di colore bianco. Ma con questa qua non esci di casa, non hai coraggio? No, beh, esco sulla veranda, no? Ah, tu praticamente adesso sei... quanti anni hai? Sono 62. C'è la mia età più o meno, quindi sono non sei... in un abbigliamento da casa, diciamo. Da casa, quando torni a casa ti cambi, ti metti maglietta, pantaloncino bianco... Ti metto un po' in libertà. E ciabatta, e in libertà, e girella per casa, così uno si rinfresca. Mi sembra giusto, il nostro ascoltatore si merita un libro infame che senz'altro a lui darà molta gioia e soddisfazione. Guardate, è un bellissimo romanzo, è Patrick Fogli, La puntualità del destino, PM la linea rossa, è un libro che al suo prezzo, perché devo dire che costa 17,50 euro, quindi con quello che risparmi per questo libro la prossima volta ti puoi comprare qualcosa di più decente. Sono molto contento comunque che tu abbia iniziato in questa maniera la tua la gara al libro infame. Davide da Como, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Sì. Grazie, è un onore per parlare con lei. Ma io finora ho capito che la gente mi ascolta praticamente in mutande. Spenga la radio però e mi dica come è vestito lei. Sì, no, la radio è spenta, probabilmente c'è l'eco perché sono in macchina, sto guidando. E come è vestito? Niente, volevo descrivere, esatto, indosso adesso un paio di jeans e una blue jeans. Dei pop. Ma jeans, proprio jeans, blue jeans, lei dice? Sì, esatto, proprio blue jeans, delle sneaker nere. E una camicia marrone. Con o senza adesso, calzini? Con o senza calzini? No, con i calzini, con dei fantasmini. Comunque, nero e marrone, perfetto cafone. Il fantasmino è una cosa che non si può vedere. Con la scarpa nera, il fantasmino avrà il pudore di non farsi mai vedere le caviglie, spero. No, esatto, non si vede. E la maglietta? Adesso, no, senza maglietta intima. Ah, cioè adesso lei va ad orso nudo in macchina? No, con la camicia, mi scusi. La camicia è importante, la cosa importante, è l'unica cosa che si vede dal finestrino. Com'è la camicia? Esatto, una camicia marrone. Mamma mia, ma la camicia marrone con le scarpe nere? Sì. Ma come viene in mente di scegliere una camicia marrone? Solo per capire. Non è che la voglio denigrare, è una scelta, ma il marrone è proprio il colore che più ci porta a pensare che polvere siamo e polvere torneremo, qualcosa del genere, no? Beh, insomma, non si sente elegante, si sente elegante comunque. No, ma guardi, obiettivo, mi devo fare, guardi, le regalo un bel librettino. Volevo essere Lady Oscar di Marie-René Lavoie, un colpo di fulmine, un tuffo al cuore, un meraviglioso romanzo sull'amicizia, l'infanzia, i sogni che accompagnano tutta la vita. Lei avrà sognato molto da bambino, la sua camicia marrone corrisponde a quei palloncini marroni che non ha mai avuto. Quando andava al pallonaio c'era soltanto rossi, gialli, verdi, blu, e dice voglio un palloncino marrone, e non c'era, e oggi è stato premiato. Carlo da Teramo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Vorrei anche delle signore però, perché le signore mi sfuggono, non so come sono vestite. Carlo da Teramo, vediamo come il nostro defilé. Finora abbiamo un signore in pantaloncini bianchi e ciabatte, un signore in camicia marrone con i fantasmini, vediamo se lei riesce a rialzare un pochino il livello. Io sto guidando, quindi le ciabattine non le posso portare. Che scarpe ha? Ho delle tipo spiagge, tipo quelle da barca, diciamo. Ah sì, quelle che andavano. Spenga la radio però, spenga la radio. Mi sente sì, lo stesso. Sì, un secondo. Eccomi qua. Ha una scarpetta da barca che andava negli anni 80, però ancora senza calzini, giusto. Senza calzini. Pantaloni? Pantaloni è lì dove sta un po' la cosa particolare, perché sono tipo cammello. Avevo una macchia e stamattina non mi sono ricordato. Beige, pantaloni beige? Sì. La macchia dov'era? In zona sospetta? Sulla gamba sinistra. Mi sono accorto in ritardo. E di cos'è questa macchia? Cos'è che l'ha macchiati sulla gamba sinistra? Penso qualcosa di unto. E non, c'è una bella patacca d'unto davanti. Sì. Che è imbarazzante. Uno pensa che lei ha dell'incontinenza, qualcosa del genere. Però, e la camicia? La camicia stupenda, puzza di quelle che vabbè, costano 6-7 euro. Beh, 7 euro è un bel prezzo, guardi, sono anche da 2 euro. A quadretti blu, celeste, grigia, sì. Ma si sente perché ho l'impressione che sia viscosa, ma sarebbe una cosa fantastica. È tutta sintetica, diciamo, è tutta sintetica. Sì, mi fa sudare di brutto. Sotto non c'è una canottierina, no? No. E sudo, io sono uno di quelli che suda tantissimo. Va bene, mi sembra insomma un buon accostamento. Guardi che mi piace, devo dire, mi sto facendo un quadro delle persone che mi ascoltano. Le regalo un bel libro, guardi. Proprio per il fatto che lei ha ammesso di puzzare molto, il libro di Ricard Mathieu, l'autore del Gusto di essere felici, il gusto di essere altruisti, il potere della generosità per cambiare noi stessi e il mondo. La ringrazio. Katia da Verona, finalmente una signora. Eccomi qua. Come è vestita? Luca, io sono in pantaloncini corti pure io, in canottiera. Ah, aspetta, fermo, mini shorts, vanno molto di moda adesso. Sì, beh, per le ragazze. A che altezza sono? A che altezza sono? Facciamo quanti palmi sotto il punto vita? Dai, saranno... Quante dita? Una 15 centimetri. 15 centimetri cioè 15 centimetri la coscia è nuda praticamente. No, dai, 15 centimetri. Dai, forse 20, dai, non sono proprio. Allora le cosce corte, perché 20 centimetri la coscia è tutta nuda. Sono piccola, sì. Ah, quindi c'ha questi pantaloni. Quindi le arrivano qua dove? La caviglia? Dove le arrivano? No, mi arrivano. Non lo dica. Diciamo tra. Beh, si vede. Un po' più su del ginocchio, dai. Un po' ah, vabbè, allora sono quasi dei Bermuda, sono. Sì, un mix tra pantaloncini e Bermuda. Ma sono, diciamo, tenuti su con una culisca, una cintura o semplicemente così, con la abbottonati e via? Abbottonati e basta. Senza niente, cintura. Sì, così. Perfetto. Sopra cosa ci ha messo questo bel pezzetto? Allora, i pantaloncini sono neri, ha una bella canotta gialla perché... Bella, gialla e nero, come Kill Bill, stupendo. Gialla e nera. Come la pemaia. Come la pemaia. La canotta, sotto la canotta nulla naturalmente. No, un reggiseno, dai. Ma vabbè, rompe l'armonia e diciamo questa sorta di aver osato tanto. Allora, canotta gialla, pantaloncino nero e ai suoi piedini cosa calza? Un infradito. Di gomma? Un infradito, no, in sono un infradito nero un po' lucido. Ha qualche accessorio per ingentilire questa suo outfit? No. Una borsetta, niente. Molto semplice, molto easy. E i soldi non li mette? Semplice. Il telefono, i soldi non li mette? Ho una borsettina. Ah, ce l'ha la borsetta? E com'è la borsetta? Sì, borsettina. Nera, piccolina, una pochettina nera. In pandan col pantaloncino, naturalmente. Nera, certo. Nera. Classico, il nero va sempre bene. E le piace questo modo di andare in giro? Sì. Dove sta andando? Al mare? Molto semplice. Stiamo andando al lago. Ah, al lago? Vabbè, lei va al lago e il costume lo tiene dentro la borsa. Lo tengo, sì, dentro la borsa. Poi in base al tempo e se decidiamo di fermarci o meno. E poi lo rimette bagnato o si cambia? Sei portata al cambio? Certo. Perfetto, lei ha detto tutto. Guardi, le do un libro bellissimo. Mi piacerebbe che lei lo avesse in mano adesso, però purtroppo lo avrà soltanto fra qualche mese, perché è di Bollati Boringhieri, Francesca Serra, La morte ci fa belle, che mi sembra un perfetto augurio per la sua nuotata nel lago, che sarà una nuotata lunga, bella, distensiva, rasserenante. Ci sentiamo tra un istante, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. Ciao Nicoletti, sono Fabio. Voglio un libro infame perché anche io sono uno scrittore di libri infami e mi piace l'idea che tra qualche anno magari tu sarai lì a regalare uno dei miei libri infami a qualcuno che telefonerà. Ho una nipote, pensi, che durante un'estate delle scuole superiori se ne è letta 31. Non so come abbia fatto. E desidererei un libro della trasmissione perché ne ho solamente 10.000 e mi manca giusto quello lì. Quello che mai nessun istituto di ricerca, nessun analista del pubblico della radio è riuscito a mai fare, noi facciamo regalando libri infami. Capiamo uno spaccato, analizzando uno spaccato importante del nostro pubblico, come veste l'ascoltatore medio della nostra radio a quest'ora. Finora ho un panorama che mi già dà l'idea di una tipologia che è molto umarellica, devo dire, dell'ascoltatore maschio, che veste con abiti di risulta, di recupero da bancarella, addirittura un ascoltatore va con la macchiona davanti al pantalone beige. Le signore, finora l'unica signora chiamato, devo dire, ha un look molto friccicoso, va con dei mini pant molto attillati, con una canottiera gialla e con delle infradito, quindi va verso il lago alla ricerca di avventure che muteranno la sua vita. Questa mattina regalo un libro a chi mi dice come è vestito. È molto semplice: 800 24 00 24. Francesca da Biella, eccoci, buongiorno. Come è vestita? Allora, io sono vestita non per andare al lago, purtroppo, dove in vacanza, perché devo andare a lavorare, quindi... Certo, a lavorare a mezzogiorno e mezzo è un bel lavoro. No, alle due inizio a lavorare. Fa il turno delle due, cos'è, catena di montaggio? No, non faccio il turno, faccio l'impiegata. L'impiegata alle due, entra il pomeriggio, come mai? Sì, no, perché stamattina avevo un impegno, quindi non ho potuto... E come si veste l'impiegata media biellese? Bravissimo, sì. Come si veste? Allora, mi vesto con una gonna bianca. Bianca è impegnativa, Ma no, che non è impegnativa, perché sopra ho messo una camicia di jeans con le maniche corte, sta benissimo, e una cintura. E piedi nudi? No, piedi nudi no, un paio di scarpe da ginnastica bianche. Sì, diciamo... Cosa dice? Dipende, lei viene in ufficio ma proprio per lavorare, basta, non ha desiderio di chiamare attenzione attorno a lei, immagino. No, assolutamente, perché sono già impegnata. Beh, quello dice. Che vuol dire, uno che siamo impegnati, non siamo disponibili. Lo so che fa sempre piacere un complimento, un qualcosa. La gonna che livello è di ginocchio? La gonna, ha letto la mia età, quindi? No, non l'ho letta, no. 52. E beh, che vuol quindi dire? Quindi è sotto il ginocchio. E beh, che vuol dire? Ci sono cinquantenni, vanno in giro i pantaloni corti. No, a una certa età non bisogna portarle certe cose, secondo me. No, ognuno c'ha il suo punto di vista, io sono molto largo. L'estate va bene, magari al mare, magari una volta ogni tanto. Senta, ma la scarpa di ginnastica, quando comincia... ad arrivare quel delizioso venticello del meriggio, non emana un po' un odore che magari al suo vicino di scrivania potrebbe... No, non sudo, non puzzano, non sudo. Vabbè, no. Tranquilla, c'ha qualche accessorio per ingentilire questo suo modo di porsi? Certo, ho un braccialetto che mi ha regalato mia figlia, rosa. Sì. E una collanina e basta. Benissimo. La biancheria non si vede, la gonna bianca però è un po' trasparente, immagino. No, sono sottogonna. Ah, anche il sottogonna, con questo caldo. Rigorosamente sottogonna. Lei magari non lo sa, ma se c'è un capo un po' trasparente si rimette sottogonna. E se no si vede il perizoma, certo, chiaro. Se no si vede, no, perizoma no, si vede quello che c'è sotto. No, non voglio sapere. Noi, solo lì, magari a una certa età non fa piacere farlo vedere. Ma perché lei si butta giù così? C'è gente che pagherebbe denaro sonante per settantenni, si figura, una cinquantenne ancora. Penso. No, ma sicuro, certo, con le scarpe da ginnastica è un po' una ciacca desiderio, però ognuno fa quello che vuole. Comunque le do un bel libretto, ecco, Sergio Claudio Perroni, l'editore Bompiani, editore importante, il libro è un libro che ha il suo prezzo, perché 15 euro, che non è male. C'era anche una dedica dell'autore a Gianluca, che giustamente disse nichilismo, mi ha fatto la dedica Claudio Perroni, e quindi regalo alla signora, così felicemente vestita per andare a lavorare, Renunzio Vobis, che è un libro che parla di papi, che sicuramente l'aiuterà a incrementare e corroborare la sua vocazione monastica. Grazie. Silvia da Novara, buongiorno. Pronto, buongiorno Gianluca. Aspetti, mi sei versata l'acqua, sto facendo un casino. Eccomi, sì. Quanto tempo ho? Ditemi il tempo. No, per capire quando chiudo 4 minuti ancora, quindi 57. Dai, Silvia Novara, com'è vestita? Allora, ho un prendisole blu lungo fino ai piedi. Il prendisole che è? Scusa, mi manca questa. Cosa serve il prendisole? Cos'è? Quello che si mette sopra il costume? No, esatto, sì, sopra il costume. Cioè una tunica da suora, cos'è? Una cosa del genere? No, però due spacchi fino a metà coscia. È un sacco informe da cui escono fuori le sue cosce ben tornite? Ah, sì, devo dire. Se no, scusi, se avesse avuto la cellulite, se le chiudeva con il filo di ferro. Si vende bene quello che ha. Quindi esatto, gioca sul colpo d'occhio. Tacco. Col prendisole, che però non ci azzecca molto, non è proprio il mio campo. Ma... Perché è un prendisole un po' carino, tutto di pizzo. Figurati, è una bomboniera praticamente. Quindi il tacco con lo strass e poi basta, fine. Ignuda. sta tutto coperto. No, e sotto il prendisole cosa porta? No. C'è? No, perché uno può farne anche a meno, che ne so. Ah beh, ma col caldo sì, effettivamente. Ecco, effettivamente, ci ripensi. Allora, visto che lei ci ha dato delizie e lampi di desiderio, le regalo un libro che senz'altro le piacerà, è di Elisabetta Ambrosi, Chiare Lettere, c'è cioè la prefazione di Lia Celi, che è una delle menti più eccelse del nostro panorama delle femmine pensanti, il sottotitolo è La resistenza delle nuove mamme italiane. Non so se lei sia mamma, ma se va in giro con la coscia in vista sicuramente ha messo dietro le spalle questa sua primaria vocazione. Il titolo è Guerriere, perché oggi mi fa venire in mente lei una guerriera. Alberto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Come vestito? Allora, paio di bermuda sopra il ginocchio blu mare. Finora gli uomini tutti pantaloni corti o pantaloni macchiati? Bermuda blu mare, sì. Quelli con le tasche da Omarell? No, beh, con le tasche, ma sono abbastanza eleganti. Sì, eleganti, e bermuda elegante, poi, diciamo. Una camicia di lino bianca. Ah, beh, lei fa il viver. E poi la scarpa? Ecco. La scarpa è una, si può dire la marca? Ma dica quello che vuole. È una Hogan, si chiama Carpa Kion, perché è diventato un pesce, una carpa blu, giapponese. Quindi la scarpa da fighetto di provincia che va a comprare le scarpe Hogan perché pensa che è una figata, ecco, questa è la cosa. Con sì, un fantasmino però che non si vede. Ecco, ma perché mettete i fantasmini? Che è una delle cose che secondo me più grida no, vendetta. Non si vede. Perché uno mette il fantasmino e il vorrei ma non posso? O uno ha il coraggio e l'ardire della scarpa senza calza, se il fantasmino dice sì, te faccio della caviglia ma metto dentro, copro i piedi perché sai potrebbe esserci un problema. Comunque, lei cosa fa? Va a razzolare donne vestito così? Qual è il suo scopo? No, purtroppo devo andare all'ospedale a trovare mio padre. A trovare mio padre, però dalla parte subo così non si spaventa, pensa che lei è un infermiere, la vede con la camicia bianca e non si preoccupa. Bene, allora, visto che va a trovare suo padre, le regalo un libro fantastico di una delle firme più eccelse del giornalismo nazionale, che è Pino Nazio, Il bambino che sognava i cavalli, 779 giorni di ostaggio dei Corleonesi, da un incontro con Santino Di Matteo. Sovera Edizione, è un libro che parla di un sequestrato, quindi se lo legge con calma, con la sua camicetta bianca. Faccio in tempo a farne un'altra. Sì, dai, Angelo da Napoli. Angelo da Napoli. Buongiorno Nicoletti. Sì, svelto. Senta, Angelo. Io sono un giovane dog sitter di Napoli, quindi sì, ho un outfit tutto per, diciamo, per i cani. Sì, veloce, sì, vestito allora, da canaio. Vestito da canale, ok, c'è un jeans che prima era lungo, invece l'ho fatto accorciare. L'ha tagliato con le forbici, l'ho sì, tagliato 10 cm da tallone, orrendo, sì, sì. Una maglietta nera con dei pallini bianchi con la B altrettanto orrenda, sì. E delle scarpe belle rosse, ma sono tutte piene di polvere, visto che sto sempre con i cani. Ci avranno fatto la pipì cane, era appestato cacche di cani, puzzerà di pelo di cane. Quindi questo è impreziosito da Gaia Peruzzi, Amori Possibili, le coppie miste della provincia italiana. Lei che esce con i cani leggerà un libro sulle coppie miste. Saluto tutti, addio, spero sia una buona estate per voi, per me no di sicuro.